Don't change it. Acid Crash. Thank you. Bye. così sappiamo dove si farà la festa del virus. Mass Revolution. Per la Your Chart delle 23:30, il Napoli di Fiumicino saluta il Lucido, il Tre Palle, il Nerone di Fiumicino, Valerietta, Remo e il disco che ha chiesto è Morella. Your Chart delle 23:30, state attenti. 06207-3232, la Your Chart, il nostro disco richiesta. Morella. Morella. Mondo Radio Centro Italia. Questa traccia si chiama Happiness, anteprima di Rage of Age. Attenti, questo è il virus. Come non scorderete mai questo disco? Ventolin, Aphex Twin, sia sabato che domenica ce lo siamo ballato, a luci spente, bello, provare a ballare anche questi dischi, luci spente e tutti rilassati a muoversi, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, generazione rave, Aphex Twin, Ventolin, Aphex Twins, non te lo scordare, mites. Maestro delle sensazioni, Aphex Twin, Ventolin, Ventolin. State attenti a fine maggio, Flashback Mega Party. State attenti anche al 6 maggio, Sonic Dream. Quante cose vi vorrei dire, quante ve ne vorrei dire. Vi ricordo però una cosa, il virus, ci sarà anche lo stand, bello, che è anche il compleanno dello stile di vita del virus. E quindi lo stile di vita, sia le felpe, le magliette a maniche lunghe, soprattutto quelle nuove con il Gremlins, adesso saneranno anche quelle nuove per l'estate, le magliette. Le trovate da Remix Fashion, via del Fiume 1B, Remix a via Livorno, 4B, Piazza Bologna, e poi, saluta Reversi, Piazza Bologna, e poi a via Bado degli Ubaldi, 45, Remix. E trovate le esclusive di queste nuove felpe, nuove magliette a maniche lunghe e a maniche corte del virus. E poi le trovate in tantissimi altri posti, che basta chiamare la Virus Line 0336 614071, e vi viene detto tutto quanto. Ok, in tutto il Lazio, si trova anche in Svizzera, si trovano anche da tante altre parti le felpe del virus. Lo stile di vita è un marchio registrato che troverete anche nella festa del virus. Arriva Travel, l'EP di Alex Gulliver su Atrax. Di solito sentiamo l'altra traccia, questa è un'altra da ballare, già l'avete ballata, questa è proprio quella del titolo all'intero EP su Atrax, Alex Gulliver. We'll be right back. Mondo Radio Centro Italia. Alex Gulliver, dietro c'è un personaggio che conoscete molto bene. Questi progetti nuovi su Atrax, Sammy Gabber, Romani, che stanno piacendo tantissimo. Li trovate nei migliori negozi specializzati. Alex Gulliver e Mass, i due nuovi progetti su Atrax, li trovate nei migliori negozi specializzati, da Peyote e poi da Remix, e in tanti tanti negozi in tutta Italia e non solo, ok? Soprattutto all'estero. Soprattutto, questo è il Virus Aids, il suono che si sente in tutto il mondo. Magari non si chiamerà virus, perché il virus non è un suono, il virus è il programma e tutto il movimento, ma il suono è la techno music e i suoi derivati. Ok, Alex Gulliver, per oggi è lunedì per che cosa? Per il Virus Mix. Oggi c'è di nuovo Freddy K, il sottoscritto Freddy K a Virus Mix per 20 minuti che tremerete, 20 minuti che ballerete, non tremerete, ok? Virus Mix, arriva Freddy K e poi c'è il club dell'ultima mezz'ora, quello finale, no? Da mezzanotte e mezza fino a l'una, il club quello tutto bello, che c'è una bella atmosfera da mezzanotte e mezza a l'una, ok? Eccolo qua, arriva Virus Mix, Freddy K. DJ, ready, K, DJ, ready, K, DJ, ready, K, DJ, ready, K, DJ, ready, K, DJ, ready, K, DJ, ready, K, DJ, ready, K, virus. You DJ Freddy K the virus. a Virus Mix, Freddy Cage. A Virus Mix, Freddy Cage. It's our future. future. It's our future. It's our future. It's our future. A Virus Mix, Freddy Cades. We'll be right back. a Virus Mix, Freddy Cates. Don't change it. Virus Mix, Freddy Cates. Mm-hmm. Viruzides fino a mezzanotte, eh? Ve lo scordate mai. E il 24 aprile è un anno di virus. Non potete voltare le spalle alla techno music. Yo, this is DJ Chuck.